faceva tanto freddo in quel triste gennaio. Una tramontana pazza sul mio viso passò, così senza motivo, né un saluto, una parola. Compagna gioventù, te ne andavi via, e il pianto mio scendeva, ghiaccio diventava, che inverno amaro nella vita mia. Darmi pace, non m'arrendo al pensiero che tu a poco mi sfuggivi così. Io ti tenevo stretta con le braccia nella vita, e mi sentivo ricco, giovane per sé. Mai detto il tempo va, qui non posso stare, un ragazzino in gamba mi troverò. Con le braccia nella vita, e mi sentivo ricco, giovane per sempre. Mai detto il tempo va, qui non posso stare, un ragazzino in gamba mi troverò, un ragazzino in gamba mi troverò, un ragazzino in gamba mi troverò.